New Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi apriamo il dossier che riguarda il reato di associazione mafiosa. I 28 stati membri hanno 28 diversi codici penali e solo l'Italia ha una legislazione antimafia particolarmente estesa e avanzata. Vista la portata e le conseguenze del tema, sono urgenti interventi normativi a livello europeo al fine di contrastare la diffusione delle organizzazioni criminali e combattere i reati connessi alle mafie. A che punto è il lavoro del Parlamento europeo? Ne parliamo con l'europarlamentare Laura Ferrara, che saluto. Partiamo dall'ultimo atto in termini di tempo, ovvero il rapporto approvato dal Parlamento europeo, che per la prima volta nella storia europea definisce in maniera chiara e forte il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Di che cosa si tratta? Sì, si tratta finalmente di un passo in avanti compiuto dal Parlamento europeo, perché viene riconosciuta la necessità di istituire a livello europeo un reato che preveda non solo la definizione dell'associazione a delinquere, ma anche dell'associazione a delinquere di stampo mafioso. Abbiamo sostanzialmente ripreso pedissequamente la definizione contenuta nel 416 bis del nostro codice penale, l'abbiamo inserita in questa relazione del Parlamento europeo e dunque ci si augura che ora la Commissione europea presenti da qui a breve una proposta legislativa in tal senso. L'associazione di stampo mafioso diventa quindi un problema non solo italiano, ma europeo. E ciò per cui abbiamo lottato in tutti questi mesi, far maturare proprio la consapevolezza in chi già non l'avesse, che la criminalità organizzata e la criminalità organizzata di stampo mafioso sono fenomeni europei e non soltanto circoscrivibili a ambiti nazionali. Quindi, oltre alla definizione, che cosa chiedete alla Commissione? Noi con questa risoluzione attuale abbiamo circoscritto le nostre raccomandazioni in tre ambiti specifici di intervento, e dunque in tema di criminalità organizzata e immigrazione, criminalità organizzata e ambiente, criminalità organizzata e uso dei fondi. In buona sostanza, partendo dalla base giuridica e dunque, come abbiamo già detto, chiedendo l'introduzione di un reato a livello europeo di associazione a delinquere e di associazione a delinquere di stampo mafioso, chiedendo di rivedere la normativa in materia di ambiente e dunque andare a normare tutti quei reati emergenti e soprattutto facendo attenzione alle infiltrazioni della criminalità organizzata in tutte le procedure di appalto, in tutte le procedure di gestione dei rifiuti, in particolare dei rifiuti pericolosi, un'attenzione particolare poi agli ambiti quali le istituzioni nazionali ed europee, le pubbliche amministrazioni, dove è facile che si insinui purtroppo la corruzione, e poi anche misure che richiamano ancora una volta degli strumenti di cui l'Italia già si avvale. New Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.